angeli o demoni, coppie comuni, un corso di yoga per mettersi in posa, un velo trasparente tra di loro difende, i non detti feriscono, il silenzio corrompe, si amano senza amarsi, si odiano senza odiarsi, si guardano senza vedersi, l'uno nell'altro sembrano amanti, l'uno nell'altro sembrano amanti, ognuno resta nei suoi appartamenti. Bella la vita, che bella, bella la coppia che brilla, senza colpo ferire, senza parole, insieme come due piatti, destini senza colore. Bella la vita, che bella, da passare senza farsi vedere, solo la voglia di essere, per l'altro un apparire, un velluto di perle nere, non più amore, non più ferire. A tavola tovaglioli, le posate pulite, respiri annientati, un vaso di fiori, nella camera da letto, le foto migliori di un tempo quando i giorni erano migliori. Si amano senza amarsi, si odiano senza odiarsi, si guardano senza vedersi, l'uno nell'altro sembrano amanti, l'uno nell'altro sembrano amanti, ma ognuno resta nei suoi appartamenti. Bella la vita, che bella, bella la coppia che brilla, senza colpo ferire, senza parole, insieme come due piatti, destini senza colore. Bella la vita, che bella, da passare senza farsi vedere, solo la voglia di essere, per l'altro un apparire, un velluto di perle nere, non più amore, non più ferire. Anime divise in un tetto, due vite racchiuse in uno specchio, un letto, due cuscini, non ti tocco, nemmeno se cascasse la luna nel pozzo. Si amano senza amarsi, si odiano senza odiarsi, si guardano senza vedersi, l'uno nell'altro sembrano amanti, l'uno nell'altro sembrano amanti, ma ognuno resta nei suoi appartamenti. Bella la vita, che bella, bella la coppia che balla, senza colpo ferire, senza parole, insieme come due piatti, destini senza colore. Bella la vita, che bella, da passare senza farsi vedere, solo la voglia di essere, per l'altro un apparire, un velluto di perle nere, non più amore, non più ferire.